Ramo documenta que si no puedo al lamento documento tú me le harás. Song song radigo, sto voglio ricere, sto voglio canta. Ramo documenta que si no puedo al lamento documento tú me le harás. Song song radigo, sto voglio ricere, sto voglio canta. Patam passaporto, patente, carta d'identità. Un bello documento prima o poi tu me le harà. Un bello documento per ti identifica. Un bello documento ya managgia ya cucca. Voglio tutta giornata atto controlla. Riunione, cortei, centri, università. No, no, no, non ci faccio più, non te vai mai a cucca. Adina una mamma, da fatica. A surzi e cacu cazzi della ciapalua. Voglio ramo documento per ti identifica. Sì, puzzle, puzzle, puzzle, puzzle, puzzle. Casino vo dal lamento documento tu me le ara. Song song radigo, sto voglio ricere, sto voglio canta. Ramo documenta casino vo dal lamento documento tu me le ara. Song song radigo, sto voglio ricere, sto voglio canta. Ho documenta non mi scappa nessuno. Cupisto ci sta ma 791 cavalluna. Un ragazzo 12 disoccupati. Cani sciolti o compagni organizzati. È una fissazione mia, è una vera malattia. Se non vengo documenta non funziona che ho strumenta. Non pago che ho magna, ma so che ora ne stantina. Non riesco che ho caga, sono una carne tutte vile. Ramo documenta, ma rompero cazza. Ramo documenta, prima canta rompo mazza. Puzzle, puzzle, puzzle, puzzle, puzzle, puzzle, puzzle, puzzle, puzzle, puzzle, puzzle, puzzle, puzzle, puzzle, puzzle, puzzle, puzzle, puzzle, documenta, casino po' dall'amiento, documenta tu me le arra. Song, song, radigo, sto voglio ricere, sto voglio canta. I ma robot up, style. Style. Quello fa 3 giorni fila all'ufficio comunale, giù in ogni agio pulita, si è scassato a dormina. L'era nuova che bellezza, ma voleva un cornicia. Ma mo non passa giorna senza che la già caccia. Metta per fuori a casa. Giovanotto, documenti. Son guardie le capite, amo in un fossamento. Prefetta in zona botta, si se sciupa documenta. Si tanchiava cafatina, sai come fai contenta. Ma mo basta che sta storia, mo c'è si marutto cazzo. Non do rungo documenta, pierdo su noi e sciapazza. Non do rungo, do rungo, do rungo, do rungo, do rungo, do voglio piace dall'amiento documento non voglio ra. Ma una passa vocazza radigos, to voglio ricere, to voglio canta. Sento documenta che ti piace dall'amiento documento non voglio ra. Ma una passa vocazza radigos, to voglio ricere, to voglio canta. Te ne fottere mazzata, te ne fottere a galera. Nemo con mamma, non mai amo in non ne manera. Mo mo chiave, faccio cazzo su marone da sarina. Sin da pozza manca più, cago cazzo ogni mattina. Allora a mia moglie, io cerco documenta. Ma va bene che c'è io, sono più contente. A mio figlio, se cerco documenta. Ma guardare in da cullerire non capisce niente. Purisula, ma cerco documenta. Ma cago su di stesso, caccio immediatamente. Purisula, ma cerco documenta. Chiamo terminale, ma controllo le precedente. Sento documenta, che ti piace dall'amiento documento, non voglio ra. Ma una passa po' cazzo la digos, to voglio ricere, to voglio canta. Sento documenta, che ti piace dall'amiento documento, non voglio ra. Ma una passa po' cazzo la digos, to voglio ricere, to voglio canta. Com'era nuovo, sì sì sì, com'era nuovo, sì sì sì, com'era nuovo, com'era nuovo, com'era nuovo, voglio ra. Com'era nuovo, sì sì sì, com'era nuovo, sì sì sì, com'era nuovo, com'era nuovo, nella mo voleva incornicia. Com'era nuovo, sì sì sì, com'era nuovo, sì sì sì, com'era nuovo, com'era nuovo, com'era nuovo, voglio ra. Com'era nuovo, sì sì sì, com'era nuovo, sì sì sì, com'era nuovo, com'era nuovo, nella mo voleva incornicia. Sento documenta che ti piace dall'amiento documento, non voglio ra. Ma una passa po' cazzo radigos, to voglio ricere, to voglio cantare una tavola. Sento documenta che ti piace dall'amiento documento, non voglio ra. Ma una passa po' cazzo radigos, to voglio ricere, to voglio cantare. Patam, patam, fa solo che patam.